Componimento 165esimo del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Come il candido pie per l'erba fresca, i dolci passi onestamente muove, vertù che intorno i fiori apra e rinove, delle tenere piante sue parchesca. Amor che solo i cor leggiadri invesca, né degna di provar sua forza altrove, da begli occhi un piacer sì caldo piove, chi non curo altro ben né bramo altresca. E col andar e col soave sguardo s'accordan le dolcissime parole, e l'atto mansueto, umile e tardo. Di tai quattro faville, e non già sole, nasce il gran foco di ch'io vivo ed ardo, che son fatto un augel notturno al sole. Fine del componimento.